Com'è andata? Era agitatissimo, momenti manco parlavo. Pensati che subito quando è arrivata credeva fossi Marco, perché vedeva sempre uno che la guardava la mattina. Sì, perché avevo detto a Marco di lei. Non ci posso credere. Ci ho scritto un pezzo per descrivere il mio stato, pensa quant'ero fuori. Non vuoi traumatizzarmi? Dimmi tranquillo. Pare sia molto provocante con tutti. Cosa? I ragazzi chiaramente ci provano, poi devo stare attento. Mi pare una brava ragazza. Un'occasione.